Nel 1978 Augusto Simonini pubblicò un ampio saggio dedicato al linguaggio di Mussolini. In esso, fra l'altro, si metteva in evidenza l'importanza delle strutture ternarie nei discorsi e negli scritti del Duce. Tanto per capirci, Nitti, no? Nitti era un ministro infame, infamabile e da infamarsi. La rivoluzione fascista avrebbe fatto grande l'Italia comunque, dovunque e contro chiunque. Lo stato aggressore era l'Abissinia, soltanto l'Abissinia, nessun altro all'infuori dell'Abissinia. E come è rimasto tristemente famoso, occorreva credere, obbedire e combattere. La struttura ternaria, insomma, spadroneggiava nel discorso. Simonini faceva risalire questo stile al Manzoni come prototipo dello scrittore popolare e in pratica spiegava che il suo successo era assicurato da una sorta di sua naturalità, ben adatto alla misura del respiro. Il ritmo ternario si prestava alla facilità o alla faciloneria, dalla superficialità al consenso acritico, risultava convincente, ecco, mi permetterei di aggiungere, per la sua ripetibilità. Perché il ritmo che trascina e che coinvolge risulta per l'appunto da una ripetizione di elementi, come certe simmetrie di forme e di colori, no? Che nei più svariati ordini del biologico attraggono e inducono a reazioni simpatetiche. Mussolini raccoglieva dunque l'eredità di una tradizione fortunata. Anche la Chiesa Cattolica, per esempio, aveva preso la struttura quaternaria della filosofia morale, quella classica, quella che incitava alla prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, e l'aveva risintetizzata in quella terna delle virtù teologali, fede, speranza e carità, che peraltro non sempre è stata tenuta in debito conto dal suo Papa e dai suoi fedeli. Affisso in questi giorni negli appositi spazi delle vie cittadine, invece, un manifesto pubblicitario sembra riaffidarsi al quaternario. Rappresenta una fanciulla in lunghi guanti neri, striminzito corpetto nero in pelle, microgonna nera in pelle, calze velate sul nero, scarpe nere a tacchi alti, caschetto nero e labbra nere. Maneggia catene come fossero guinzagli, questa funerea fanciulla, sembra guidare sferzandoli quattro pneumatici che ovviamente non sono azzurri a pois aranciati. Reclamizza un dichiarato prodotto della German High Technology, ovvero dell'alta tecnologia tedesca, e forse in grazia di una memoria particolarmente corta non ne sembra affatto imbarazzata. Lo slogan recita: nero, largo, forte, fulda. Tre caratteri più uno che è il marchio. Tre caratteri che tramite la fanciulla e la sua messa in scena dovrebbero arrivare ai pneumatici, diciamo così, dopo aver beneficiato di una stazione valorizzante costituita da qualcosa che palesemente proprio pneumatico non è, ma che per certe analogie funzionali può rammentarlo. Il prodotto tedesco dunque confida nel sesso in versione sadomasochistica e in una struttura semantica ternaria arricchita. Ricicla colori, tonalità e stili di un passato che non è poi così sepolto e li inserisce bellamente nelle festività consumistiche di coloro che si possono permettere di scarrozzare le proprie coscienze su strade sicure e garantite. Ancora una volta poi la donna in versione di perversa padrona e strumento di mercato, semplicemente. Ricevo una lettera, mi si dice che Milano deve tornare ad essere la Milano laboriosa, la Milano dell'imprenditoria, la Milano della cultura e la Milano europea. Che dovrei votare per un milanese doc, un laureato in legge, imprenditore e presidente nazionale di non so che. Che dovrei volere una Milano più bella, più sicura, più pulita e più verde. Perché, e qui eravamo al 4, perché c'è troppa droga, troppa prostituzione e troppa criminalità. E siamo al 3 e bisogna che lo dica a parenti, ai colleghi e agli amici. Ricevo una lettera in cui, insomma, predomina il ritmo quaternario, ma non esente da ritmi ternari, come ci fosse un minimo di incertezza in chi me la scrive. Si alterna un ritmo con l'altro, ma o all'uno o all'altro, nell'intero discorso che mi viene rivolto, si fa ricorso. Passano gli anni, ma la forma retorica con cui si vuol portare a termine un processo di losca persuasione è sempre quella, che appartenga ad una chiesa o ad un autoritarismo qualsiasi. Poi dimenticavo la firma, non so perché, ma mi ha scritto Silvio Berlusconi, quello che secondo lo slogan prova a ripartire da Milano, perché l'altra volta il treno poi ha finito per perderlo. I don't want to wait no more.